24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Le riforme costituzionali domani entrano nella settimana decisiva, credo che ci saranno gli ultimi interventi. No. Lo sapete, lo diciamo spesso la domenica, e di fatto è alla politica dimostrare in questo caso se sarà così oppure no. Domani si apre una settimana decisiva. No. Settimana decisiva per quanto riguarda le riforme. No. In aula domani a Palazzo Madama il via un'altra settimana di fuoco sulla riforma del Senato. Sulle riforme il governo vuole fare presto. Sono queste le ultime settimane cruciali per le riforme costituzionali. Ora mi dicono che bisogna iniziare sempre pacati a quest'ora perché c'è molta gente che ci ascolta, magari si è appena svegliata e bisogna tenere un tono un po' da risveglio, appunto, un po' dolce, un po' tranquillo. Però basta! Basta! Per favore, basta questa cosa della settimana decisiva, anche Renzi dall'Angola, basta! Comincio a innervosirmi perché si apre, è vero, la 64esima settimana decisiva per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province. Ma adesso che sia la settimana decisiva del Senato, ma decisiva di che cosa? Di la che cosa? La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro. E a cena una minestra scunnita. Basta questa cosa, decisiva di niente! Di niente, l'abbiamo spiegato mille volte. Se mai ci sarà il voto della riforma del Senato, certamente non questa settimana, peraltro, magari entro il 10 agosto, sarà il primo voto, poi passerà alla Camera, poi tornerà al Senato, poi ci sarà ancora la Camera e tra il primo e il secondo passaggio nella stessa Camera devono passare almeno 3 mesi e poi forse ci sarà un referendum. Ci vuole 1 anno e mezzo, basta, colleghi, vi prego, colleghi del TG1, TG2, TG5, Telenorma, Tele7 Gold, Telefornimpopoli, TG della 7, Silvia Brasca, ti prego almeno tu, basta. Silvia, buongiorno. La decisiva è vietata, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Come stai? Io molto bene. Molto bene. Bene, nonostante, insomma, sono giornate decisive. Decisive, no. Ma no. Vabbè, salute, fatemi. Federico Novella, voi del TG5, basta. Sì, buongiorno. Mattino 5 in realtà, Mattino 5. Volevo augurare a tutti buona settimana decisiva. Eccola. Di certo c'è una cosa, è la settimana decisiva prima che io vada in ferie. Su questo guarda, ma non ci piove. Non vai ancora in ferie perché non vuoi perderti l'approvazione delle riforme. Ma no, e così non faccio. Vai in ferie col groppo in gola. Così. Vado in ferie nel 2018, insomma. Esatto. Io torno qui e a settembre il Senato sarà come adesso, come adesso, non sarà cambiato nulla, state tranquilli, sereni, fino al 2000. Un giorno ce l'ha detto il deputato Karl Zeller dell'SVP, senatore, con la sua seraficità ci ha detto: ma questa riforma entrerà in vigore, se tutto va bene, nel 2017. Ma come nel 2017? Ma certo, nel 2017, coi tempi, basta calcolare, i tempi 2017. Oh, quelli, Silvia, sono di Bolzano, quindi sanno le cose tutte precise, puntuali, non sgarrano. Vabbè, allora. Adesso il re è nudo. Chi è il re? No. nel senso, non ha appunto detto quella, ha detto la verità, ha detto questo che è. Ecco, l'ha detto Zello. Allora saluto Giorgino De Luca in redazione, anche lui alla settimana decisiva prima delle ferie, e Carmelo Lauricella che è in regia alla settimana, boh, va in ferie? No, e quindi è una finta settimana decisiva per lui. Comunque, Federico l'ha detto, come sono andate le vacanze? Sei rientrato, tutto a posto? Bene, sì, tutto a posto, sono, diciamo che non mi sono perso nulla, mi sa, in questi giorni. No, per quel che riguarda... Per tornare all'argomento. Le riforme italiane, no, assolutamente. Pensa che c'è chi dice che quando anche la riforma passasse, pensa che passerà, insomma, l'anno prossimo, alla fine, sì, non cambierebbe nulla per gli italiani. No. Pensa un po', cioè il Senato, cioè, sembra di capire che non sia proprio la prima cosa che... interessa, insomma, gli italiani, no? Vabbè, su questo sì, questo è vero, c'è il lavoro, ci sono cose più importanti, però su questo devo dire che almeno si faccia, no? Dopo è il segnale che qualcosa cambia anche nella politica e staremo a vedere. Comunque tutto, quindi riprenderai mattino 5, adesso ce lo puoi dire, sì? Sì, credo, se non cambiano le cose, l'8 settembre, evocativa, diciamo così. Eh certo, è il compleanno di mio figlio, è fantastico. Tra le altre cose, è molto, esatto, molto evocativa per questo, esatto, per questo. Compie 6 anni, quindi capisci. A quello mi riferivo. Appunto, infatti tu avevi in mente quell'8 settembre, ovviamente. Esattamente. Oh, lunedì 8 settembre, Federico Novella torna mattino 5, sempre con Federica Panicucci? Sempre con Federica Panicucci. Che invidia, che mi sembra. Un po' di invidia, cioè. No, vabbè, scusa. Insomma, svegliarsi con Federica Panicucci è sempre un piacere. Insomma. Appunto, questa la mandiamo a tua moglie, la tagliamo e la mandiamo così il file, poi mi dai la mail, tranquillamente. Vabbè, arriva. È sempre molto cortese. Sì, ma certo. E tra poco preparati, perché dovrei dire qualcosa sul Movimento 5 Stelle per farti ripartire diciamo tornare dalle ferie con grande entusiasmo. Allora tu, Silvia Brasca, adesso no, usciamo un po' dallo scherzo e cerchiamo di capire queste riforme che oggi ripartono e votano con 7500 emendamenti. Che succederà secondo te? Ce la farà entro il 10 di agosto, almeno alla prima approvazione al Senato? Ma dovrebbe, forse quella c'è. Sicuramente, scusami, io voglio tornare, abbiamo aperto una settimana, ma venerdì, la settimana scorsa, si è chiusa col botto e quindi quella, la soluzione di Berlusconi di cui tutti pensiamo questa settimana. Però forse qualcosa, non dico sulle riforme, ma dico sul quadro sta muovendo. Ecco. Sì. E quindi Novella forse non dico che sia più esperto di me in queste cose, però puoi dirlo, se lo pensi, sappiamo, eh? No, sappiamo insomma che dalla 7 l'aria che tira in una casa la percepisco meno. Sono stato tanto in quella casa lì, forse lui ce lo può dire anche. Sì. Ecco, che cosa cambierà? Vediamo. Secondo me è stato un terremoto. Da casa Mediaset, ma prima mi sono dimenticato, non abbiamo aperto il Parlamento. Giustamente uno via sms mi ha detto: aprite il Parlamento. Dai, forza, apriamolo il Parlamento, che così è la settimana decisiva. Che cavolo. Poi c'è Nicole Minetti. Ecco, la sentite un po' più rinfrancata, Nicole Minetti, dopo la soluzione, come offre il caffè. Hai sentito Federico con maggiore... Ho riconosciuto nitidamente la sua voce. Certo. È più... Devo offrire lo champagne. Più esatto, potevo offrire un prosecchino anche. Un prosecchino. Allora, la soluzione di Silvio Berlusconi. Caro Federico, tra poco vi devo far sentire un epocale confronto tra Vaglio e Ferrara. Però. Ho capito a cosa ti riferisci. È stato, roba grossa, è stato roba spettacolare. C'è un clima... Ha ragione Silvia, nel senso che al di là del clima che ci può essere nell'azienda, e adesso non pretendo di descriverlo, anche perché non ci sono segnali così chiari, però è una tappa che secondo me cambia la politica innanzitutto, e secondo me ci sono due possibilità. Una è quella che vuole Berlusconi, finalmente libero da questo spada di Damocle, che quindi si consegnerà alle riforme insieme a Renzi e diventerà padre della patria, perché cambierà finalmente la Costituzione insieme a Renzi senza altri pensieri. E poi c'è una corrente minoritaria invece dice che Berlusconi adesso se ne sta bello tranquillo, rilassato, però, diciamo così, cova il desiderio di vendetta e di rivincita politica. Certo. Fare piazza pulita, ritornare in prima fila e a un certo punto staccare la spina e tagliare tutti i ponti con Renzi. Non so quando succederà, però c'è anche questa possibilità. Ma infatti c'è la telefonata ad Angelino Alfano, ricompattiamo il centrodestra. C'è, pare anche il messaggio politico affidato, racconta la stampa, a Tajani, ex commissario europeo, a dire: quando mi scadranno i servizi sociali, quindi a febbraio, voglio tornare in Europa perché avrà nuovamente il passaporto e voglio partecipare alle riunioni del PPE e Angela Merkel se la dovrà vedere con me, cioè, e addirittura secondo Repubblica vuole indietro una qualche agibilità politica quasi per ricandidarsi, eccetera. Quindi un Berlusconi che cara Silvia, hai visto? Torna politicamente a combattere. Sì, certo, però tu dovresti risentire quello dell'SVD per che ti dica che comunque Berlusconi è stato assolto venerdì, ma è un pregiudicato ed è l'unico paese al mondo in cui uno così può tornare. La telefonata in questura, che poi siano meno nato, imbarazzante, l'ha fatta in altri paesi. Un politico sarebbe già sparito. E vabbè, ma noi siamo un paese. Se viene un quarto della mattina ancora a parlare. Per me il fatto che siamo a parlare di Berlusconi dopo 20 anni, ecco, parliamoci chiaro, insomma. Però Federico, che devi dire? Ma il giudizio politico su Berlusconi resterà lo stesso, a prescindere dalle sentenze, secondo me, sull'uomo, sulla sua vita, le sue abitudini. Però obiettivamente la soluzione ha fatto il giro del mondo. Tra l'altro domani Berlusconi torna in campo, si presenta alla presentazione del libro di Micaela Biancofiore per la prima uscita pubblica, così racconta il Messaggero a pagina 2. Attenzione. Sono tornati gli Biancofiore. Io ti giuro, ecco, quando questa cosa devo dirla in maniera fastidiosa, quando io ho visto, per carità, la soluzione è stata una cosa importante, visto che per mesi e per anni hanno parlato delle olgettine, eccetera, facendo campagne, pagine sui giornali, giustamente la soluzione è stato un elemento di discussione. Ma quando ci sono 290 morti europei abbattuti da un missile dai russi, questo è col rischio di, qualcuno dice, terza guerra mondiale, e dopo un giorno da questa cosa, già il giorno dopo c'erano 10 pagine dei giornali sulla soluzione di Berlusconi e il dibattito politico e due pagine su una vicenda del genere che poteva capitare a qualunque aereo, anche un aereo con a bordo 150 italiani invece di 150 olandesi. Io ho detto: mamma mia, quanto siamo provinci, che schifo. Che schifo, il mercato, questa è la legge del mercato, è la legge del mercato. Anche per i giornalisti. Per carità. Che vuoi fare? Allora, che vuoi fare? Intanto vi faccio sentire Ferrara Travaglio. Io devo dire il motivo maggiore per cui ho seguito questo processo Berlusconi è per sentire trasmissioni come queste. Ma dai, Travaglio, su. Travaglio che ha fatto? Ferrara Travaglio, sentite. D'accordo. È lunga, ma è bella, è bella. E Forza Italia sono la stessa cosa. Si sono fatti la legge Severino per proteggere Penati e Berlusconi. Hanno votato la stessa legge. La Severino è la stessa. È un dato di cronaca. Sta zitto. La Severino è stata. Sei un somaro. Come si scaldano. Su quel mattinale che si chiama Il Fatto Quotidiano per alcune settimane, perché la legge Severino ha consentito di buttare fuori Berlusconi dal Senato. In questo momento Mentana se la ghignava un po', ma poi entra in scena anche lui. Per dire: ma io il caso Rubi, buono, se no ti spazzolo lo sgabello. Dove hai messo il tuo culetto nella trasmissione con Berlusconi? Sei l'uomo più sputtanato dopo Berlusconi in Italia. Quindi è chiaro. Allora, fammi finire. Mentana, adesso mi fai finire. Sei un somaro. Che non posso sopportare quello lì con, quelle, con quei capelli sul collo, come capite, mi porto, il tuo culetto, Giuliano, tu lo sgabello lo sfondavi. Ma voi vi rendete conto? Senti, senti. Di chi scopava con Berlusconi, non va bene? Capisci nulla. E poi un'altra cosa più importante. Mettiti il rossetto. Scusa Giuliano, parla, puoi parlare della questione? No, ragazzi, vi prego, tutte e due, vi prego. Scusate, stiamo parlando adesso onestamente. La parrucca. No, niente, Mentana capisce che è un po' troppo. Adesso cerca di intervenire e a questo punto si parla addosso con Ferrara, che vuole finire il suo intervento, e Ferrara si arrabbia con lui e finisce. Sentite come finisce. Allora, quello che ti voglio dire è che tu lo ascolti o no, è che sto perdendo la scommessa di farvi parlare civilmente di un argomento che è superiore a voi e che riguarda invece i telespettatori e questo paese, cioè Berlusconi, la giustizia, qual è la questione della procura di Milano, quali sono i problemi per... Niente, non si ascoltano. Ma finisce male. Di parlare di chi ce l'ha più lungo tra te e Travaglio, non me ne importa nulla. Metti a tacere Travaglio nulla mentre parlo io, punto. Ma sei oltretutto hai ritardo che sei a fanculo casa. Hai capito? Va bene. Mettilo allora facciamo una bella cosa di igiene. Oh, abbassiamo l'audio di Ferrara un attimo. Abbassiamo l'audio di Ferrara, grazie, molto gentile. Così lo vediamo che dice, almeno le parolacce non le sentiamo. È qui, è Ferrara, qui prende e se ne va. Cara Silvia Brasca, se ne va dal tuo direttore, gli gira il suo culone e se ne va. Non è la prima volta. E non è la prima. Però devo dire che combattente. Qualcuno che alza così la voce come Tane e gli dice fai questo, fai quest'altro. Oh, vattene. Tu ci hai provato una volta in redazione. Caro direttore, dammi questo servizio, proprio. Ti mando. Proprio. Federico Novella, tu quante volte invece? No, ma io do complimenti a Mentana, però è stato bravissimo nel far finta che fosse tutta una sorpresa. Invita sempre loro, loro due, ogni volta succede così, però è stato, sembrava estemporaneo, e in realtà poi lo era, però Mentana un po' aspettava sotto, no? Sì, prima o poi aveva fatto la scommessa, vi parlerete in modo civile, no? Ma fino un po' c'è riuscito, fino a un certo punto. No, che dici Silvia? Sai che è stato criticato proprio per questo? Per quello che so, non è, queste cose non è che piacciono molto a Mentana, questo, le urla, le cose, no, proprio non puoi non invitare Ferrara e Travaglio quella sera lì, giornalisticamente non potevi non farlo, se ti hanno detto di sì, erano liberi, erano su piazza, fatto bene. Non potevi non farlo, l'avrei fatto anch'io e mi sarei aspettato che sarebbe finita così, c'è un rischio, forse non così, però c'è una percentuale, La percentuale è alta, ci devi provare, però ci provi e poi finisce così, sera poi si sono dette per fortuna altre cose, comunque appunto il tema introdotto a Travaglio, la legge Severino, è quello sul quale appunto sta pensando l'acqua nel mortaio. Oggi ovviamente Giuliano Ferrara fa il suo commento del lunedì proprio su questo, ho partecipato e ha parlato un po', ha fatto un lungo editoriale, magari lo legge in rassegna stampa, ma intanto andiamo a sentire il traffico e poi entriamo con la segreteria telefonica. Strade in diretta. Buongiorno, sulla 4 Milano-Brescia si sono formate code in entrata a Bergamo per un veicolo in panne, traffico poi a rilento verso Milano tra Dalmine e Cavenago. Chi prosegue sul tratto milanese della 4 incontra coda tra la barriera di Milano Est e il raccordo di Viale Certosa. Anche in direzione Roma code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale Est, sulla diramazione Roma Sud code tra Torre Nova e il raccordo anulare. Altre code per un incidente sulla Pontina tra Pomezia Sud e Castello Romano in direzione Roma. A Roma oggi anche lo sciopero del trasporto pubblico dei dipendenti della società Roma TPL, mezzi a rischio dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio. Attenzione alle piogge sparse, si incontrano al nord e sulle zone interne del centro e tra Lazio e Campania. È tutto, torniamo tra mezz'ora. 24 mattino. Caro Milan, sono Raul da Modena, volevo dirti che sei un bravissimo giornalista. Però è solo un difetto, di calcio non capisce un cazzo, perché dire che Allegri è scarso vuol dire che non capisce un cazzo di calcio. Allegri è più preparato di Conte e purtroppo adesso nella Juve tornerà a vincere ancora, visto che Conte non avrebbe più vinto niente, e andrà a finire che vince anche la Coppa dei Campioni. alla faccia tua, hai capito? Quindi smettere di dire di stronzate. Parla di politica, non parla di calcio, che è meglio, fai più bella figura. Buongiorno Alessandro Milan, io mi sono concessa una licenza poetica. Alessandro Milan da Città di Milano scervellava per il nuovo sport molto sano, evitando lo sforzo alcuno, diventando il numero uno, legge i giornali per la gente immediata da profano. Grazie e buona giornata. Salve Milan, ti auguro buone vacanze a te e a Pita. Peccato però, perché dovremo festeggiare senza di te la riforma elettorale, l'abolizione delle province, la riforma del Senato e pure il ritorno dei Marò e altre infinite supercazzole che in questo momento dimentico. Torna presto. Alino, l'introduzione di Benigni ci ha fatto la palla. Io direi di sostituirla con questa, senti un po'. Caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del World Urban Forum. Vabbè, addirittura le persone che ci mandano, ve lo ricordate Silvia, te lo ricordi il World Urban Forum? Epocale del presidente della provincia di Napoli, novella. Questo c'è, secondo me ci avevi giocato anche tu. In trasmissione. Sì, è una pietra miliare proprio della comicità italiana. Un po' come questa, visto che dicono. No, guardi, non si può mica parcheggiare in il Camposanto, no, non si vuole. Sbidiguda, supercazzola prematurata. No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle. Le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui non si può parlare. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale. Ispettore, ma che dici? Ispettore, allora, la questione è questa, caro Federico, ma secondo te è un'accusa dura quella di dire, tutti gli ascoltatori, molti, adesso dicono Renzi fa le supercazzole, no? Questo modo. Si dice spesso che Renzi in sostanza non dica nulla, ma quello che il nulla lo dice benissimo, non riesci proprio a staccarti. Ed è vero, cioè, non so che Berlusconi abbia detto, è un grande comunicatore ma poco di più, però insomma questo è punti di vista, diciamo. No, in realtà poi tu Silvia che ne pensi? Questo sospiro è già una risposta. Che malinconia. Mamma mia. Per malinconia, nel senso che dobbiamo un po' cercare di stringere qualcosa, perché appunto il rischio un po' dell'inconcludenza estiva c'è. Ecco. Un po'. Vabbè, con insomma, ci parte scuole belle. Ma a questo punto, cioè, insomma, dico, visto che ci arrivano anche Milan, Nebraska, Rosiconi. Ah no, ma questa forse è su Berlusconi. Non so, tu rosichi? Rosichi Silvia Brasca? Io? No. Per Berlusconi? No, però un po'. Commentano, però rimangono i fatti, cioè è terribile che siamo arrivati al punto ovviamente di aver dato in mano a una sentenza dei fatti siamo tornati su Berlusconi. Siamo tornati su Berlusconi. No, andiamo avanti. Andiamo avanti. No, la questione è, molti ci scrivono anche, dai, su un po' di ottimismo, ma io non è che lo prendo in giro sulla questione delle settimane decisive. È chi dice che la settimana è decisiva che si prende in giro da solo, cioè non è che sono Federico. Quello serve per tenerci un po' tutti sulla corda, se no ci addormentiamo. Sembra che io prendo in giro uno dicendo che è la 64esima settimana. Dall'inizio della legislatura sono passate 64 settimane e io ho sentito con le mie orecchie, per la verità era Enrico Letta, dire aboliremo le province e faremo la riforma elettorale. E mo adesso ci dicono che tutti i giorni la settimana è decisiva, ogni lunedì inizia e io le conto. Ecco, tutto senza qua. Contare che poi per Renzi i tempi sono tutto, è arrivato al governo per rispettare le tappe, se poi non le rispetta i 100 giorni diventano 1000 e io sono autorizzato a farmi qualche domanda o no? Appunto, no, ma infatti, ma poi non sarà colpa sua, ma non è colpa sua, carità, è il sistema, carità. Sono i 7500 emendamenti che hanno messo in Parlamento. Anzi, a questo proposito, sapete che cos'è la regola del canguro? Questa l'ho scoperta sulla Stampa ed è una regola che potrebbe snellire i tempi di discussione al Senato, e cioè si possono accorpare tutti gli emendamenti che sono scritti col testo uguale, ma cambia magari un numero. Per esempio c'è l'emendamento che dice passiamo a 315 senatori, l'altro a 314, l'altro a 313, l'altro a 312, ma tutto il resto del testo è uguale. Chiaramente è un inghippo per presentare una valanga di emendamenti. Si possono accorpare con il salto del canguro. È un regolamento parlamentare, Silvia, lo conoscevi? Tutti questi... No, vedi come sei bravo, Milan. No, l'ho letto sulla stampa. No, capito, ma... però cogli bene le notizie, le sai spiegare bene, devi parlare di politica. Io ho preso appunti, Hai preso appunti. Canguro. Vai in redazione saltando come un canguro, Federico Novella. Esattamente. Dice, perché vi spiego la regola del canguro. Ora ve la racconto io, vabbè. Ora ve la racconto io. Allora, invece vi voglio chiedere questo, siete entrambi cittadini di Milano e come me, indovinate qual è, scrive il Sole 24 Ore, la città col maggior numero di multe d'Italia? Posso immaginarlo? Di capoluogo lombardo? Esattamente sì. Milano. Più multe pro capite. Più multe pro capite, 170 okay. euro per patentato, per ognuno che ha la patente. Sapete quant'è la media a Caserta ogni anno? Da noi 170 euro a Milano, eh? A Caserta. Cosa mi frega sempre? Cosa? Il lavaggio della strada. Adesso c'ho il box. Il lavaggio della strada è micidiale. A Milano penso che risanano il bilancio comunale con le multe che fanno per le macchine lasciate lì. Capito? Certo. Anche perché poi a sorpresa, capito? Cambia sempre. Il lavaggio della strada si fa dalle 6 alle 7 di lunedì, però il mese prossimo si fa dalle 8 alle 9 di mercoledì. Scusate, questo sfogo personale. No, ma è giusto. Quante multe c'hai sul groppone? Quest'anno poi col fatto che c'ho il box, però alla fine penso che anch'io quelle 3-4 multe all'anno almeno. Ce le hai per un motivo certo. Per un altro. Comunque a Caserta, a Milano 170 euro pro capite, a Caserta 60 centesimi l'anno per patente, Silvia. Forse perché non le pagano giù? Forse non le danno proprio. Credo che non siano quelle pagate, siano quelle che vengono erogate. Capito quante multe? A Caserta tutti. Giorgino, tu che sei di Napoli, sono tutti disciplinati a Caserta, tutti perfetti, guardano. Nessuno che parcheggia in divieto di sosta, Silvia. Non è perché. In moto col casco, è la moto tutti col casco. Napoli esco pazza. Che devi fare. Federico, volevi lasciarci una considerazione su Caserta, così perdi tutti gli ascoltatori di lì? No, nel senso, magari i vigili di Caserta dicono: vabbè, dai, qui c'è troppo lavoro, magari facciamo altro. Sarebbe una battaglia troppo grande. Va bene, cari vigili di Caserta, avete sentito? Lui è Federico Novella. Dall'8 settembre, giorno del compleanno di mio figlio, insieme a Federica Panicucci, si sveglierà tutte le mattine. Questa è una gran fortuna e ripartirà con Mattino 5. Credo di non parcheggiare a Caserta almeno nei prossimi giorni. Quindi sono tranquillo. Vabbè, tu, Silvia, invece vai in vacanza? Sì, ci andrò più tardi, più avanti. Più avanti, vabbè, che... manteniamo questo mistero, mi sembra giusto. Allora, no, vuoi sapere, mica sono come te che sta ammorbando l'Italia con il suo candato. Muovo un paio di paparazzi per Silvia. Va bene, tutti i paparazzi da Silvia Brasca, che oggi racconta nei giornali, arrivano i paparazzi anche con i droni. Dovunque andrai, cara Silvia, ci sarà un drone su di te per paparazzarti in costume. E allora vi ringrazio, dai, Silvia Brasca del TG. Ciao. Della 7, saluta Chicco Mentana e digli che insomma non se la prenda per Ferrara, è uno di quei vaffanculo alla Ferrara, tra un mese sarà già lì ospite, non si preoccupi. No, c'era passato un anno tra l'ultima litigata, aspettiamo un anno. Grazie anche a Federico Novella, alla prossima. Ciao Federico. Volete dire la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492 e ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3, adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta.

così surreale, visto che conto, sapete, le settimane decisive, che non sono decisive ma che appaiono decisive. Siamo alla 64esima settimana decisiva per la riforma elettorale, per esempio, nonché per l'abolizione delle province. Ma comunque, per dire, di questo tema parleremo più avanti. Alle 8.45 avremo ospite la senatrice Loredana De Petris, che ha firmato non so quanti, ha presentato centinaia di emendamenti per mettere un po' di sassi sui binari, come li ha chiamati Renzi, nel viaggio verso le riforme. Prima però vogliamo tornare a occuparci dei costi di Camera e Senato. Lo facciamo perché sta per partire una trattativa con i 2.315 dipendenti delle due Camere e le 25 sigle sindacali che li rappresentano. L'obiettivo è quello di introdurre il tetto da 240.000 euro anche alla Camera e al Senato per i dipendenti della pubblica amministrazione. C'è però un altro aspetto parallelo a questo, di cui raccontava il Messaggero venerdì, e cioè questo: il Parlamento potrebbe essere definito, e ha ragione, visti alcuni dati, un pensionificio, vista la sproporzione clamorosa che c'è tra i contributi che vengono incassati ogni anno da Montecitorio e Palazzo Madama e le pensioni che vengono erogate. Per dire, una cifra su tutte: ogni anno alla Camera si incassa un euro di contributi e se ne versano 8 per pagare le pensioni. Voglio salutare uno dei questori della Camera, Stefano D'Ambruoso. Onorevole, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei, Milan, ben ritrovato a lei, grazie. Saluto anche il giornalista del Messaggero Diodato Pirone, che ha scritto questo articolo che mi ha molto colpito. Buongiorno Diodato, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto, pensionificio è un po' ingeneroso la tua... Beh, insomma, dati alla mano è un po' così, un euro entrano, 8 escono. Ma come mai sei arrivato a questa situazione, Pirone? Allora, dunque, intanto devo dirti che nel frattempo, da venerdì, la Camera mi ha scritto, l'ufficio stampa della Camera mi ha scritto una lunga lettera che pubblichiamo oggi per correggere questi dati, per rettificarli anzi. E effettivamente dalla lettura dell'ufficio della stampa della Camera emerge che la differenza è leggermente meno forte, diciamo così. Il rapporto è di circa 1 a 4, ecco, quindi... non 1 a 8, ecco. Non è 1 a 8, ma incassano sostanzialmente circa 72 milioni e ne versano di contributi, sia pure una parte figurativa, da qui l'equivoco che mi ha portato a scrivere 8 nel rapporto, e ne versano 243 milioni virgola e 300 mila euro di pensioni, quindi il rapporto è circa 1 a 4. La sostanza del problema non cambia, per il semplice fatto che, ti faccio un esempio, il fondo pensione dei lavoratori dipendenti dell'INPS incassa circa 91 miliardi di contributi l'anno e paga 96 miliardi di pensioni l'anno. Quindi siamo quasi in pari. Mentre invece la differenza sulla Camera è gigantesca. Il problema da che cosa nasce? La cosa che a me ha più colpito, parlando con alcuni dei sindacalisti della Camera, e che lo sapevano, in particolare qualcuno mi ha detto: sì, ma sono anni che noi sosteniamo che le nostre pensioni sono insostenibili. E questo è un problema, secondo me, molto grave, un problema etico. Noi siamo in presenza di una nicchia molto importante, molto sì, qualificata della nostra classe dirigente. Senza dubbio. Sono 2000 persone che fanno un lavoro molto importante e che sapevano di un problema molto grande, sapevano di essere in una posizione, come dire, il Parlamento dovrebbe essere l'esempio, e invece, diciamo, hanno lasciato le cose così. Però dico io, a scapito di equivoci, chi in una situazione in cui percepisce o sa o si rende conto di percepire un privilegio dice: sì, effettivamente, toglietemi questo privilegio? In Italia nessuno, parliamoci francamente. Però cioè, secondo me è il legislatore che dovrebbe porre un freno a questa situazione. A questo proposito, onorevole D'Ambruoso, intanto i dati sono questi: 1 a 4, no? 1 incassate e 4 date in pensioni. Queste sono le cifre, dunque, che si possono considerare definitive. D'Ambruoso. Sì, ammetto delle precisazioni fatte ieri dalla Camera, c'è anche la parte delle pensioni integrative che ricordava l'ottimo articolo del giornalista del Messaggero, che sono state precisate, ma a parte alcune precisazioni la sostanza c'è un problema che giustamente il giornalista Pirone ha ricordato, che ha evidentemente oggi natura etica, perché di questo si sta parlando, ma il compito, io sono davvero convinto, essendo un neofita della politica e avendo davvero avuto di mira anche allora quando ho deciso di entrare in politica, dare un contributo di legittimazione a tutto quello che si fa in quella Camera, ebbene lì la politica deve prendere le sue decisioni, ed è davvero difficile prendere decisioni. E perché si può fare? Mica si può diminuire la pensione, o sì, si possono ridurre le pensioni? Allora, guardi, se proprio la vogliamo, se uno volesse fare il pentastellato della situazione, direbbe: chiamiamo tutti gli esodati che stanno fuori in giro per ancora a reclamare giustamente le penalizzazioni che hanno ricevuto, e vediamo che cosa vengono a dire loro, allorché si parla di diritti quesiti o diritti che poi sono cambiati in corso. Per esempio, questo si potrebbe assolutamente dire. Allora, se c'è davvero una situazione di emergenza, si può arrivare anche a ridurre le pensioni. Ma insomma, da Broso che fa il pentastellato. Perché ci troviamo di fronte a una situazione del genere. Concretamente i diritti quesiti non sono toccabili, evidentemente. Ho capito, no. Ecco, concretamente. Però per il futuro, su questo ho assolutamente il piacere personale di poter dire che sono già cambiate le regole, per cui non ci saranno più delle regole che consentono degli avanzamenti stipendiali così evidenti come sono stati rilevati nell'articolo del giornale, perché per il futuro, per chi entrerà da oggi in poi alla Camera, non avrà più quella situazione. Questo sì, però questo vuol dire, io non so, conti alla mano, Diodato Pirone, allora ricordiamo, vogliamo anche chiarirlo, insomma, adesso non voglio rivangare, ma visto che lei ha detto se si volesse fare il pentastellato ci fu anche una vecchia diatriba e discussione. L'onorevole D'Ambrosio con il Movimento 5 Stelle ha avuto un qualche attrito, mettiamola così. Facendo il pentastellato si potrebbe dire tocchiamo. In realtà i diritti acquisiti non si possono toccare, Diodato. I cittadini italiani dicono: a noi ce li hanno toccati i diritti. Diciamo che intanto le super pensioni, perché di questo si tratta, noi dobbiamo pensare che la pensione più bassa che viene erogata se il dipendente va a fine carriera, ma diciamo anche non a fine carriera, se va a riposo dopo 30 anni di servizio, prende intorno ai 100.000 euro. 100.000, la più bassa, perché la più alta al momento è intorno ai 300.000 euro. No. Quindi noi stiamo parlando di queste pensioni. Di pensioni, lorda, ma stiamo parlando pensioni di dipendenti. Dopo 30 anni di servizio, ma è per carità, per carità. Voglio capire quanti italiani dopo 30 anni di lavoro onesto hanno una pensione da 300.000 euro lordi, che vuol dire, che ne so, 200.000 euro netti. Infatti, questo è uno dei temi che penso che affronteremo con l'onorevole D'Ambrosio, che è quello domani si pare che si dovrebbe cominciare questa trattativa col primo obiettivo, che è quello di riportare a 240.000. Cerchiamo di capire questo: si può anche per le pensioni? Questo è un punto concreto. Onorevole D'Ambrosio, siccome volete cercare di porre questo tetto a 240.000 euro che è stato messo per la pubblica amministrazione, si può almeno fare questo per la pensione? Quella pensione da 300.000 lordi scenderà a 240.000, almeno la pensione così alta? Guardi, obiettivamente è più agevole incidere sugli attuali stipendi piuttosto che sul quello che si chiama maturato previdenziale, su quello che già è acquisito in termini previdenziali. E questo ce l'ha già detto, cioè i diritti acquisiti, ai noi non si toccano anche, in quel caso, ma neanche se supera i 240.000. È tutto, il vero problema è che dovremmo trovare una mediazione con le 25 sigle sindacali, ricordiamo 25, un numero anche qui che merita una riflessione, il numero delle cifre sindacali a fronte di questi stipendi che sono al di fuori del contesto in cui il paese si ritrova a vivere oggi. Ebbene, sugli stipendi sarà possibile agire. Sulle pensioni io credo che sarà davvero quasi impossibile mettere mani su una questa insomma è una risposta che, per carità, non è Diodato Pirone, non è una risposta, come dire, di impossibilità perché non si vuole, ma c'è sempre poi un ricorso alla Corte Costituzionale. Dobbiamo dire, per essere, per diciamo, per correttezza, per completezza di informazione, che c'è un super prelievo sulle pensioni che superano i 90.000 euro. Sì, quest'anno la Camera, per dare un'idea della dimensione della cosa, il contributo di solidarietà, circa 8 milioni di questo super prelievo che viene passato allo Stato. Questo super prelievo riguarda tutte le pensioni, esatto, che super, non soltanto quelle della Camera. Esatto. Quelle della Camera sono quasi tutte così, ecco, della Camera così come del Senato, così come molte anche. Ovviamente precisiamo, Diodato, stiamo parlando di dipendenti, cioè non di ex deputati o senatori, ma i dipendenti di Camera e Senato. No, io infatti vorrei, diciamo, mi permetto di riportare un po' la questione, cioè se parliamo soltanto dei pensionati non andiamo da nessuna parte, per il semplice fatto che ormai, mettiamoci una pietra sopra, i cavalli, i buoi sono usciti dalla stalla, c'è poco da fare, quindi appunto possiamo mettere questi cerotti come super prelievo, però quelli la pensione se la tengono, si tratta di vedere un pochino, di riaggiustare nei limiti del possibile, con le cose concrete che si possono fare e senza un atteggiamento punitivo verso, insomma, nonostante un atteggiamento eticamente molto discutibile di questa burocrazia, molto discutibile, è quello che si può fare. La prima cosa che si può fare è pensare ad un aumento dei contributi. Un aumento dei contributi. Allora, che lavorano. Oltre ad una riduzione degli stipendi, sulla quale si sta discutendo, questo è un punto molto importante, si sta discutendo di farlo in modo graduale. Certo, si pare che gli stipendi dei 240.000, anche tu scrivevi, se anche entrassero, entreranno in vigore nel 2017, 2018. Questa è la proposta che pare che stia circolando. Io devo dire, sono anche questo, personalmente sono un po' perplesso, perché noi sulle altre parti della burocrazia, che pure sono molto importanti, il capo della polizia, il direttore dell'agenzia delle entrate, sono entrate in vigore le 240.000. È entrate in vigore da maggio, cioè francamente non si riesce a capire per quale motivo i dipendenti della Camera, del Senato, del Quirinale, della Corte Costituzionale debbano essere trattati. È forse perché ci sono 25 sigle sindacali, c'è, come abbiamo detto mille volte, l'autodichia e dunque l'autonomia, per cui bisogna fare una trattativa separata rispetto a quello che c'è per il resto della pubblica amministrazione. Ma dopo la pubblicità vorrei concentrarmi proprio su questo, con due domande. Si riuscirà a porre questo tetto da 240.000 euro anche per i dipendenti di Camera e Senato, cioè riuscirete a convincere le 25 sigle sindacali? E poi la proposta che dice Diodato Pirone: aumentiamo i contributi per chi lavora in una situazione privilegiata vista la situazione del paese. 24 mattino. 34 minuti, eccoci qua con Diodato Pirone, giornalista del Messaggero, e con l'onorevole Stefano D'Ambruoso, uno dei tre questori alla Camera. Allora, onorevole, vogliamo ripartire da qui. Ci sarà la possibilità di porre questi 240.000 euro? Si auspica di sì. E poi la proposta che faceva Pirone, aumentare i contributi, come la vede? Fattibile? Sull'aumento dei contributi io credo che si possa fare, che non ci sia un blocco, comunque una barriera normativa tale da impedire questa cosa. Per cui su questo si può assolutamente negoziare con i sindacati questo aspetto. Credo di doverla deludere, nel senso che quel tetto renziano dei 240.000 euro, su quale io credo, fortemente credo, proprio perché per non creare due distinti regimi all'interno della pubblica amministrazione, per quanto siano bravissimi i funzionari della Camera o i dipendenti della Camera, ma credo che quel tetto difficilmente sarà letteralmente applicato anche alla Camera. Questo, Diodato, come la dobbiamo prendere? Come un atto? Come la dobbiamo prendere? No, come un'ammissione forse, ma perché difficilmente, non ho capito, scusi, aspetti, però onorevole D'Ambruoso, ma difficilmente perché? Perché c'è una fronda, c'è una resistenza? Beh, le resistenze come puoi immaginare, mia, lei è troppo esperto per intuire che ce ne sono, e sono certo. Anche di una, che sono di una qualità notevole. Stiamo parlando degli assistenti insomma migliori dei vertici di questo paese, per cui hanno voce da spendere, una voce qualificata da spendere, e per cui, per farle l'esempio più classico, chi prende di più alla Camera oggi, che è il numero uno della Camera, segretario che generale che prende 480.000 euro, potrebbe vedere il suo stipendio abbattuto sino a 360.000 euro, che è un abbattimento forte obiettivamente di 120.000 euro, ma che supera sicuramente quel tetto renziano che invece si sta promulgando come possibile obiettivo. Figurarsi arrivare a metà, insomma, resistenze forti, Diodato. Posso permettermi di intervenire? Dunque, io mi rendo conto che diciamo i questori e le due presidenze che stanno gestendo questa cosa sono di fronte a, diciamo, ad un Moloch, ad un passaggio veramente epocale per molti aspetti, perché questa storia dei super stipendi e delle super pensioni dura da tantissimi anni e quindi si è incrostata. E, tuttavia, io mi permetto di insistere, secondo me il doppio regime, insomma, non è un bel esempio per no, il paese, no. Assolutamente. Ma credo che anche l'onorevole D'Ambrosio sia d'accordo su questo. Siamo tutti convinti di questo, insomma, anche perché io vorrei dire, è vero che il segretario della Camera ci rimette circa il 25% più o meno della sua retribuzione, però vorrei ricordare che il capo della polizia fino a 2 anni fa prendeva 600.000 euro. Ah, ma su questo e c'è che in silenzio è sceso a 2.40. No, ma Diodato, siamo tutti d'accordo, anche gli italiani. Voglio rispondere anche ad Alfredo Ferrante che ci scrive su Twitter a dire: polemica sterile in questo momento a 24 mattino, visto che si parla delle eccellenze dei funzionari. Ma chi dice che non siano degli eccellenti funzionari, qualificatissimi, preparati? C'è chi ha 2 lauree, c'è magari chi ne ha 3 di lauree, che lavora come assistenti parlamentari, eccetera. Sono quelli che di fatto scrivono poi le leggi, diciamolo francamente, Diodato. No? No, nessuno mette in dubbio la loro professionalità, no. Ma perché il capo della polizia non è professionale? Eppure, se c'è un tetto, si applica. Certo, vorrei anche introdurre un altro elemento che è molto importante. In Senato hanno inserito nel testo della nuova Costituzione, sperando che venga approvata, perché ripetiamo 4 letture, quindi è lunga la settimana decisiva, sì. Un comma prevede l'unificazione delle due amministrazioni, cioè di quella del Senato e quella della Camera, quindi noi siamo di fronte ad uno sforzo obiettivamente importante fra l'idea dell'unificazione, il tetto, il problema delle pensioni, ad uno sforzo di ristrutturazione di quella che è l'azienda più importante del paese, se non altro sul piano simbolico, insomma, e non solo, perché poi produce le leggi, cioè è importantissimo per la nostra democrazia. Allora io mi permetto di sottolineare un aspetto: se invece della difesa dello stipendio e della pensione, sì, provassimo a porre un progetto anche positivo nei confronti dei dipendenti della Camera, fatto di che cosa? Intanto della riapertura di qualche concorso, perché lì sono 10 anni che non assumono nessuno, questo vuol dire che c'è anche un problema di sclerosi, per quanto sia di eccellente livello quella burocrazia. Non ce n'è uno che sappia cosa è WhatsApp. La situazione, no? Non conoscono WhatsApp. E la seconda cosa, mi permetto anche di suggerirlo all'onorevole D'Ambrosio, ma forse qualche elemento di meritocrazia in questo nuovo contratto andrebbe infilata. Noi siamo di fronte, perdonami, poi chiudo, ma insomma tutti gli assistenti parlamentari, tutti i consiglieri hanno lo stesso stipendio, non esistono elementi di meritocrazia. Questo non però succede anche, è un discorso talmente ampio anche che riguarda l'Italia in generale, dove la meritocrazia è stata presa una 30 anni fa e buttata nel water, è stata tirata l'acqua. Però sentiamo 2 ascoltatori, Marcello da Roma. Marcello, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Milan, buongiorno agli ospiti in studio. A proposito di doppi regimi e di disparità di trattamento, volevo segnalare che io sono un segretario comunale, un manager pubblico, sia pure allo stadio iniziale. Sì. Il mio stipendio lordo è di 40.000 euro, e con un colpo di spugna il governo Renzi alcune settimane fa con il DL sulla PA ha sforbiciato una quota della parte principale del nostro stipendio, vale a dire i diritti di segreteria percepiti dal segretario, che da questo momento in poi non saranno più percepiti da noi ma andranno incamerati totalmente dal comune. Quindi dove il governo Renzi è fortemente motivato ad intervenire riesce a tagliare. E c'è un progetto di legge delega che punta alla soppressione della nostra categoria, sul quale invito a focalizzare. Quindi 40.000 euro lordi. No, ma Marcello, beh, è interessante come cifra che ci mette così nel menù della discussione. C'è da dire che tutti qua, anche l'onorevole D'Ambrosio, vorrebbe, immagino, lei lo metterebbe subito il tetto da 240.000, D'Ambrosio, immagino, alla Camera. Portando avanti. E io sono uno di quelli che, appunto, rischiando l'impopolarità nei corridoi di un ufficio dove devo andare a lavorare, però mi sono esposto, no, chiaramente nel dire questo, che il tetto, se deve essere un tetto, deve essere di 240.000 euro. Ma come riusciamo? Ma è chiaro, chiamiamo a riduzione e affrontiamo anche l'impopolarità della comunità. Va bene, ma infatti, ma io credo, come potranno dire, ma a parte che i dipendenti della Camera difficilmente parlano, ogni tanto qualcuno siamo riusciti ad avere, ma non è facilissimo, magari i rappresentanti sindacali, come potranno dire no, noi non lo applichiamo? Perché qua, che ne so, cosa potranno dire? Mi si immagini la trattativa, perché qui siamo l'eccellenza dei funzionari statali. No, l'argomento è questo: si tratta di un organo costituzionale, quindi l'organo costituzionale non prevede la stessa normativa che è prevista per l'intera pubblica amministrazione. Ma voi gli dite, noi la vogliamo mettere questa normativa. E noi diciamo, applichiamola in modo appunto che sia compatibile con l'organo costituzionale. Ma qual è l'argomento? Loro giustamente dicono che quegli stipendi così qualificati garantiscono l'indipendenza e l'autonomia della realtà rispetto alla politica. E invece 240.000 euro non garantiscono. Questo, proprio perché si parla di capi della polizia. Ecco, allora io le dico che le figure meno apicali della pubblica della Camera, per esempio il mitico barbiere di cui tanto si parla ogni tanto, dopo 40 anni di anzianità prende oltre 130.000 euro lordi l'anno, e cioè molto più, per esempio, non le dico di un magistrato, perché io nella vita potrei insomma essere accusato di conflitto ma di un preziosissimo maresciallo della Guardia di Finanza o dei Carabinieri che a Locri piuttosto che a Messina guadagna 1.800 euro al mese, si è visto bloccato gli stipendi dal 2010 e che sta continuando a garantire lealtà e indipendenza rispetto alle pressioni quotidiane che sicuramente... Mitico, è il mio cruccio non riuscire a intervistare il barbiere della Camera. Diodato, tu sei mai riuscito? Esiste comunque questa figura. Certo che esiste. È da anni che io vorrei parlare, ma giustamente non si mette mica qui al pubblico ludibrio, non si espone. È fortunato lui, ma beato lui. No, fatevi sentire Lazzaro dalla provincia di Foggia, poi concludo con te, Diodato. Lazzaro, buongiorno. C'è Lazzaro dalla provincia di Foggia? No, ci sente? Non ci sente. Allora, Diodato, è il barbiere della Camera, questo... Allora, niente, cioè, intanto qui diciamo apprezziamo lo sforzo comunque di ristrutturare questo pezzo di alta burocrazia. Speriamo che appunto sulla questione del tetto riescano in qualche modo, se proprio deve essere diciamo un po' più alto, che ci si arrivi a questi benedetti 240.000 euro. Non nei 4 anni di cui si è parlato prima o poi, speriamo in 2, mi sembra una cosa e mi sembra già un trattamento di super favore. Qui questa burocrazia si deve rendere conto che la crisi colpisce anche in alto, non solo in basso. Ed è successo a tutti così, non si capisce per quale motivo il Parlamento, ripeto, deve essere di esempio, e non stiamo parlando dei politici. No, ma è chiaro, stiamo parlando dei dipendenti. In ogni caso staremo a vedere questa trattativa. In bocca al lupo all'onorevole Stefano D'Ambrosio, che tra i questori e insieme alla presidenza di Camera e anche al Senato ovviamente cercheranno di fare questa trattativa. Ringrazio anche Diodato Pirone del Messaggero. Allora, abbiamo recuperato Lazzaro dalla provincia di Foggia prima del traffico. Lazzaro, buongiorno. No, ci sente? Mamma che, Lazzaro, alzati, Lazzaro. 24 mattino. Allora, Allora, alle 8 e 46 minuti stiamo a vedere dunque come andrà a finire questa battaglia anche sindacale, poi magari Lazzaro dalla provincia di Foggia, adesso lo recuperiamo per la terza volta, scusate la battuta Lazzaro, alzati, ma mi sono un po' montato la testa. Prima però vorrei salutare la senatrice Loredana De Petris, buongiorno senatrice, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Uno dei classici massi sui binari di renziana citazione, è contenta di questa presentazione? Lei, insomma, lei ha presentato di suo pugno quanti emendamenti alla riforma del Senato? 5.971. Cioè, sono tutti lei? Come ha fatto, senatrice? No, tra l'altro, epocale la sua dichiarazione, ne ho dimenticato uno, quello sul mio gatto Romoletto, che nel mio quartiere è più conosciuto dai cittadini di quanto non lo sarà uno qualunque dei senatori nominati con la riforma. Sì. Vabbè, ma senatrice, dai, che cos'è? 5.971 l'ha fatta apposta, Cioè, proprio è ostruzionismo puro. Che ha fatto la maggioranza per non voler discutere proposte che erano assolutamente non solo di buon senso, ma erano evidentemente più coerenti con il nostro impianto costituzionale. Il sistema democratico è un sistema come tutti, diciamo il nostro, come altri sistemi democratici, è caratterizzato da un equilibrio. Se si tocca un pezzo, forse bisogna tutto il sistema va riequilibrato. E noi tra l'altro siamo partiti con la proposta che era quella della riduzione dei parlamentari, perché che dica Renzi, questo sia nella coalizione che tra l'altro di cui noi facevamo parte, in cui ci siamo presentati alle elezioni, cioè Italia Bene Comune, questo era uno dei punti di programma fondamentali della coalizione. E nell'ambito di questo la riduzione dei parlamentari accompagnata dalla revisione appunto di un bicameralismo paritario. Per gli ascoltatori, diciamo, il fatto voi non siete contro a ridurre i parlamentari, però di questa riforma che cosa è il punto che più non le piace di questa riforma del Senato? Ma il punto, se ne deve scegliere uno. Beh, che il ceto politico sceglie il ceto politico. Quindi che non sia elettivo. Questo è il punto, cioè i cittadini sono espropriati del diritto di voto e il ceto politico sceglie il ceto politico. Sì, ma anche cioè adesso con questa legge elettorale sono espropriati, con le liste nominate. Adesso ci arrivo. E questo fa il paio che non è che solo il Senato finisce così, perché ed è l'elemento, questa riforma deve essere inquadrata con la legge elettorale, perché alla Camera c'è stato un primo passaggio, l'Italicum, che prevede, che peggiora a nostro avviso il porcellum, perché le liste saranno più corte ma sempre bloccate sono, per essere chiari, invece che più lunghe sono di 6, ma insomma ognuno si può candidare in massimo addirittura 8 circoscrizioni, per cui un cittadino alla fine di tutti questi equilibri, diciamo, uno viene eletto in 8 posti, poi decide dove dimettersi, cioè il cittadino non saprà esattamente neanche chi avrà eletto. E in più questo, il premio di maggioranza a nostro avviso che la Corte Costituzionale aveva, diciamo, messo sotto accusa è ancora molto molto grande, cioè il risultato, le soglie di sbarramento ci sono solo in Turchia, non c'è altro paese, diciamo, che ne abbia uguali, e il risultato di tutto questo con il combinato disposto di un Senato in quel modo sarà che un partito addirittura con di basso il 25%, perché faccio un esempio, può entrare in coalizione con partiti che non superano magari la soglia del 4,5, e quindi non hanno eletti, può eleggersi da solo il Presidente della Repubblica. Quando parlavo di equilibri, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale. Quindi Renzi si può eleggere tutto in pratica. Ma senta un po', senatrice. Ma guardi, non è che le riforme si possono fare o anche le leggi elettorali, chiaro, pensando al risultato che si è avuto. No, lei non si sente un sasso sui binari, ha detto Renzi così. Ma i sassi si tolgono se si fa un si, si, sta a sentire, diciamo, perché Renzi ha iniziato questa riforma in modo... Ho capito, ma sta a sentire, vuol dire, lei vorrebbe cambiare, per esempio, mettere l'elettività del Senato? Siamo molti. Sì, certo, lei e molti altri. Come, ovviamente, è la riduzione dei parlamentari, perché questo è un punto, non si può lasciare una Camera di 630... e il Senato a 100. Noi avevamo proposto un numero complessivamente era inferiore a quello che alla fine sarà nella proposta di Renzi. Senta, cioè, senatrice, no, ma certo, ma l'accusa di essere legati allo stipendio, perché ha detto anche questo Renzi, è chiaro, nessuno vuole togliersi la poltrona da sotto il sedere, eh? Ma perché Renzi non dice che comunque i senatori eletti dai consiglieri regionali l'indennità la prenderanno ugualmente? Semplicemente che da senatore No, come no? E che prenderanno? Il rimborso spese, forse, per andare a Roma? Sono sempre consiglieri regionali, quindi la loro indennità ce l'hanno. Invece di essere pagata dallo Stato, dal Senato, sarà pagata dalle rispettive... ma non è che prenderanno, non è che prenderanno di più in quanto senatori? Prenderanno magari un gettone? Prenderanno il rimborso spese, ma quelli saranno problemi, diciamo, quando li si realizzeranno. Ma non è che verranno gratis. Cioè l'indennità... rispetto agli stipendi di 600, di 315 senatori, lei li conosce quelli dei... Sì, ma il numero, diciamo, complessivamente nella nostra proposta la riduzione dei parlamentari avrebbe comportato, se mai uno dovesse guardare la riforma soltanto dal punto di vista del costo, la riduzione dei parlamentari avrebbe comportato, diciamo, una riduzione ben maggiore, quindi da questo punto di vista non ci siamo, perché nella nostra proposta si chiudeva, diciamo, a 600 in tutto tra Camere Senato, e adesso invece siamo a 7.30, quindi come vede, diciamo, la differenza. Senta, è, però tu, è lei, un sa po' cos'è, lei sa cos'è la. In più le posso dire un'altra cosa. Insomma, lei è attento, avrà visto, abbiamo scoperto, diciamo, che tra l'altro le indennità dei consiglieri regionali in molti casi erano ben superiori a quelle dei senatori. In più c'è l'immunità. Ora, questo sì, questo è un tema, questo è un tema molto dibattuto, perché acquisiscono un'immunità. Lei lo capisce come finisce nei consigli regionali. Allora, chi non ha preso l'incarico d'assessore, da presidente finisce di commissione al Senato, o d'altro, alla fine dice come cosa residuare. Ah, ma questo è un aspetto interessante. Bisognerebbe di garanzia e via al Senato. Bisognerebbe fare l'immunità, bisognerebbe garantire l'immunità solo per le azioni da senatore, ma a svincolarla dalle azioni del consigliere regionale. Ma questo sarà complicato. In più, io penso che l'immunità, le dico con molta franchezza, è uno dei nostri emendamenti in questo senso. Sì. L'immunità per tutti deve rimanere soltanto la parte che riguarda l'insindacabilità delle proprie opinioni espresse durante la e questo funzione. Rimane. Sì, ma un emendamento, ma lei ne ha fatti 5.970. Ma che c'è scritto in questi? Ma sa che c'è la legge del il regolamento del canguro? Sa che cos'è al Senato? Beh, guardi, io la so meglio di lei. No, cioè, perché sulla stampa oggi raccontavo di questo regolamento per cui tutti gli emendamenti che differiscono di una sola parola, ma il testo è uguale, vengono tutti accorpati e buttati nel cestino, in pratica, tutti gli altri. Questo bisogna vedere, non in alcuni si applica, in altri no. Insomma, cioè c'è una tecnica per fare gli emendamenti. Lei la conosce bene, se ne ha presentati 5.971. Il regolamento si applica, ma bisogna, diciamo, avere una certa accortezza. Certo, mi dica il problema vero è la fretta. Adesso le dico un'altra cosa, perché la maggioranza tanto è che con questa fretta il decreto cultura che sta per scadere, che era pronto in commissione, noi abbiamo proposto che si iniziasse o venisse in aula oggi. Vabbè, ma perché credo che queste sono le andremo a vedere come va a finire. Mi dica in conclusione, senatrice De Petris, come sta il suo gatto Romoletto? Ma davvero vuole scrivere un emendamento sul gatto? Vabbè, era una battuta che avrebbe ci mancava potuto pure prendere quello. Beh, io amo molto gli animali. Sì, quindi, certo, diciamo, questo va benissimo. E le posso garantire che, visto, lei saprà che ogni regione ha una legge elettorale diversa, no? Non sono tutte uguali, quindi la fonte di legittimazione sarà assolutamente diversa. In più vi sono regioni, come la nostra regione, la Regione Lazio, in cui addirittura vi è un listino che l'elettore non avrà non conosce, cioè nel senso che questo listino, che è un listino del presidente, viene depositato insieme con il programma. Certo, ma che c'entra questo? Quindi c'entra, le spiego, per questo il concetto. E praticamente nessuno, non ci sa neanche quando si va al seggio, si vede scritti questi nomi. Questo per dire che alla fine, diciamo, ci sono sistemi elettorali che produrranno neanche come degli eventi sconosciuti, sconosciuti totali, e questo è il punto. Non è, io penso che il problema della crisi della rappresentanza, del rapporto tra i cittadini e le istituzioni, doveva risolversi in altro modo. Però aspetti, si fermi perché sennò sforo, altrimenti gli ho chiesto il gatto Romoletto, siamo finiti sui listini di presidenza. No, la devo fermare, la ringrazio, non è Dana De Petris. Dopo il giornale radio 800 24 00 24, se volete intervenire, parliamo di situazione internazionale, l'Ucraina, l'aereo abbattuto. 24 mattino. Siamo qui allora alle 9:07, ben ritrovati da Alessandro Milan, andremo in diretta fino alle 9:30 per quel che riguarda 24 mattino, e vogliamo aprire una pagina dedicata agli esteri, soprattutto alla tragedia che è accaduta sui cieli dell'Ucraina la scorsa settimana con l'abbattimento, ormai nessuno nega che sia stato abbattuto questo Boeing 777 della Malaysia Airlines, 298 morti. Proprio poco fa si diceva 251 i corpi recuperati e gli altri ancora no, e soprattutto le tante domande che ci si pone, cioè chi ha le scatole nere, qual è la loro sorte, chi ha abbattuto quell'aereo, visto che ormai tutti garantiscono che ci sia stato un abbattimento, e cosa succederà ora, soprattutto di situazione geopolitica internazionale. Intanto saluto Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, che si trova sui luoghi tra l'Ucraina e la Russia dove c'è stato questo abbattimento. Lorenzo, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno. Allora, le scatole nere intanto, chi le ha? Perché già c'è mistero su questo. Sì, sì, certo. A un certo punto, qualche giorno fa, era uscita la voce che fossero arrivate addirittura a Mosca. Allora, ieri ho avuto questa intervista con Alexander Baradei, che è il leader, il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica qui di Donetsk, il filo russo, il quale sostiene che le scatole nere sarebbero in mano loro, quindi in mano dei separatisti ucraini, e sarebbero addirittura qui a Donetsk. Lui ci ha detto in questa conferenza stampa, poi ha risposto a alcune mie questioni, e ha detto noi abbiamo trovato un mucchio di resti elettronici, diverse scatole, siamo quasi certi che la scatola nera sia con noi, però abbiamo bisogno di esperti internazionali che vengano e ce lo dicano. E ha menzionato specificamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per le questioni dell'aviazione, cioè l'ICAO, e sembra, queste sono notizie di questa mattina, sembra che alcuni esperti dell'ICAO siano già arrivati a Kiev per venire qui proprio per prendere, per visionare queste scatoliere. Ho letto la tua intervista oggi appunto pubblicata sul Corriere, in realtà lui stesso, questo Alexander Baradei, dice non è certissimo che le abbiano, non è neanche esperto, non sa magari neanche come è fatta una scatola nera, quindi non è neanche certissimo che le abbia lui. Dunque lui ha detto, infatti c'è stato un po' anche un momento un poco comico, perché ha detto noi abbiamo trovato tante scatole, ma cosa vuol dire tante scatole? Ma di che colore sono le scatole nere, gli ha chiesto. E lui ha detto, ma no, abbiamo queste scatole, siamo praticamente certi che alcune, lui ha detto più di una, siano le scatole nere, però non è certissimo perché appunto lui non è un esperto, né i suoi uomini, questi guerriglieri che li hanno in mano, possono dirlo, però lui pensa che sia con loro. Ti chiedo questo prima di lasciarti, e ti ringrazio anche, c'è qualcuno che mette in dubbio che l'aereo sia stato abbattuto? Mi sembra di no. E la versione che siano stati i filorussi, che è la versione più accreditata, è messa in dubbio ovviamente da loro e da chi altro? Ma direi sostanzialmente solo da loro e da Mosca. Perché tra l'altro ieri c'è stata questa dichiarazione di due responsabili dei servizi ucraini molto specifiche, parlano di questi missili, questi Buk, che sarebbero responsabili dell'abbattimento, che sarebbero stati individuati dagli ucraini già 3 giorni prima dell'abbattimento, cioè prima del 17, il giovedì 17 quando è stato colpito appunto l'aereo, addirittura avrebbero la documentazione specifica che la mattina dopo, cioè il 18 mattina, sarebbero passate verso Russia, cioè sì, sarebbero state riportate in Russia due batterie, la prima alle 2 della mattina e la seconda alle 4 della mattina del 18, mm-hmm, e una avrebbero anche le foto, mancherebbe un missile, e quindi potrebbe essere questo il missile assassino. Ma insomma, l'impressione è, poi c'è anche questo audio che è stato diffuso, certo, già 24 ore dopo, in cui c'era questo comandante locale che, anzi, loro dicono che hanno confermato questo, che ci sarebbe stata una dichiarazione addirittura dei separatisti in cui si diceva in modo trionfante: abbiamo abbattuto un aereo ucraino, un aereo, e invece poi hanno scoperto che era un aereo civile. Grazie Lorenzo, se puoi stare con noi, so che sono momenti un po' concitati. Intanto io, se puoi stare con noi ovviamente con piacere, voglio salutare con estremo piacere Sergio Romano, ex ambasciatore, editorialista del Corriere della Sera, storico. Sergio Romano, buongiorno, grazie per essere con noi, benvenuto. Buongiorno. Allora, gli scenari di cronaca sono questi, però con lei vorrei capire gli scenari di geopolitica, di quello che può succedere. Intanto, lei vede un'Europa che fa la voce grossa, come titola oggi qualche giornale, con la Russia, oppure fa la voce da pulcino? No, l'Europa non può fare nessuna voce, temo, non può parlare con una voce sola, per la semplice ragione che la spaccatura all'interno dell'Unione Europea è molto evidente ed è molto forte. Da un lato ci sono paesi che con la Russia, non soltanto per ragioni strettamente economiche, ma anche per ragioni politiche, vogliono un dialogo. Ci siamo noi, ci sono i tedeschi, ce ne sono certamente altri. E dall'altra ci sono paesi che appartenevano al blocco sovietico, che vedono nella Russia il potenziale nemico di domani, che non hanno dimenticato le loro vicende, i loro travagli, e che in qualche modo stanno cercando di fare una politica estera emotiva, temo. E poi naturalmente ci sono gli americani, i quali non possono essere estranei a una vicenda come questa, e c'è all'interno della società politica americana un partito antirusso molto forte, e lo è sempre stato, e vede in questa vicenda l'occasione in qualche modo per legittimare la sua ostilità nei confronti della Russia. Però agli americani magari ci arriviamo tra un attimo, anche perché gli americani, ricordiamo, avevano 20 passeggeri a bordo, una ventina di passeggeri, quindi a maggior ragione sono interessati a far luce su questa vicenda. Ma dice e ci spiega e ci ha spiegato molto bene perché l'Europa non può fare la voce grossa, però verrebbe da dire, da cittadino europeo, ma come diamine è possibile? Qualcuno ha abbattuto un aereo con 298 cittadini, molti, la maggior parte europei, potevano essere anche italiani, e non possiamo fare la voce grossa. Ma vede, anzitutto quando si cerca di analizzare e comprendere una situazione bisogna sempre decidere da che momento si parte. Quando comincia una crisi? Qual è il giorno iniziale della crisi? Qual è il fattore scatenante della crisi? Chi porta le maggiori responsabilità? Naturalmente quando accade qualcosa di questo genere, come la morte in cielo di 290 persone, noi non possiamo prescindere dalle responsabilità del passato, dobbiamo anche esaminare quel fatto in sé, in quelle particolari circostanze. Ma se lei mi dovesse chiedere chi porta la responsabilità di questa tensione fra l'Occidente e la Russia, le direi che era davvero necessario estendere i confini della NATO dopo la fine della guerra fredda, dopo una situazione in cui il dialogo in qualche modo c'era stato, estenderli fino non soltanto alle frontiere della vecchia Unione Sovietica, ma al di là delle frontiere sovietiche. La NATO è un'organizzazione politico-militare, esiste in funzione di un nemico. Se io l'allargo in una certa direzione, do a chi è in quella direzione la sensazione di essere considerato un nemico. Certo, sta di fatto che però dovesse essere portata una prova certa, come gli americani dicono di avere, che siano stati i filorussi armati da Mosca. Sa che molti ascoltatori, non pochi, ma molti ascoltatori sull'onda forse della tragedia hanno scritto: così iniziano le guerre mondiali, così potrebbe iniziare la terza guerra mondiale. Per carità, non vogliamo spingerci così in là, ma davvero un'azione del genere potrebbe rimanere impunita in qualche modo? No, non sarà punita sul piano giudiziario, perché questo mi sembra veramente piuttosto difficile immaginarlo, ma sarà punita sul piano politico. In altre parole, non c'è dubbio che noi abbiamo interesse, a mio avviso naturalmente, di dialogare con la Russia, avere un rapporto concreto con la Russia, ma in questi rapporti, anche quando sono di convenienza, c'è naturalmente un negoziato, chi tira di qua, chi tira di là, chi naturalmente cerca di raggiungere il massimo possibile a danno dell'altro. Beh, Putin sta perdendo una partita. Non c'è dubbio che in questo momento il fatto di avere armato spensieratamente, per così dire, persone totalmente irresponsabili e finisce per nuocere. Non credo che questo fosse necessariamente nelle intenzioni di Putin. Credo semplicemente che la mossa di dare spazio a questo mercenariato asiatico, perché gente che ha combattuto in Cecenia, che ha combattuto in Ossetia, in qualche modo sono dei professionisti del Kalashnikov. Beh, avere dato spazio a questa gente e al tempo stesso avere dato loro delle armi troppo sofisticate per metterle in mano di persone non verificabili, vuol dire che non rispondono veramente di ciò che fanno a nessuno. Beh, questo è stato un errore politico e lo sta pagando. Lo sta pagando, e lei crede, come tutti credono, che di certo nessuno volesse abbattere un aereo civile. Evidentemente si è trattato di un gravissimo errore in una zona teatro di guerra nel quale cercavano di abbattere un aereo che evidentemente avevano identificato come un aereo, non certamente un aereo civile della Malaysian Airlines. Obama che cosa farà secondo lei nei confronti di Putin, a parte le pressioni diplomatiche ovvie che già ha fatto? Dal punto di vista pratico, cosa può applicare? Prima di rispondere a questa domanda vorrei rispondere alla prima. Sì. E sono davvero sicuro che la cosa non fosse intenzionale. Ma non ne sono sicuro, non posso esserne sicuro, perché in queste vicende, guardi che la stessa cosa vale per Gaza, in queste vicende c'è sempre il partito di coloro che vogliono provocare l'incidente per suscitare un'indignazione contro il loro nemico e sentirsi in questo modo più appoggiati, sostenuti dall'opinione pubblica internazionale. Quindi c'è sempre chi progetta qualche cosa di scioccante e nasconde la mano. Quindi, per carità, voglio dire, non lo so, forse non riusciremo mai veramente a saperlo. Quanto a Obama, io credo che Obama appartenga, vuol dire, al gruppo di coloro che vogliono un rapporto con la Russia. Lo vogliono per ragioni politicamente concrete, voglio dire, davvero si può ignorare o si può essere ostili nei confronti di uno Stato che è di gran lunga il più grande del mondo, che è europeo ma anche asiatico, che è certamente nucleare, che è spaziale, insomma davvero vogliamo avere un rapporto ostile? Non credo che questo sia nelle intenzioni di Obama, ma in realtà Obama a casa sua ha quel partito di cui parlavamo un momento fa, che è il partito dell'ostilità antirussa, il partito come dire, originalmente, tradizionalmente, metodicamente antirusso, e si deve guardare le spalle, perché naturalmente Obama non è il governo, sì. Bisogna sempre ricordare che negli Stati Uniti la parola governo non significa esecutivo, la parola governo significa presidente più congresso. Certo. E senza il congresso non si governa, non si lavora. Io tra l'altro, siccome Lorenzo Cremonese è ancora con noi, Lorenzo, ci dicono gli ascoltatori, se nel caso hai opportunità ancora di parlare con Alexander Borodai, che la scatola nera è arancione, quindi magari trovassero un qualcosa di quel tipo di colore. No, ma al di là delle battute, l'Olanda come si fa sentire lì? Cioè, l'Olanda ha pagato un tributo terribile, ovviamente, più di ogni altri paese. L'ambasciatore Sergio Romano ci ha raccontato come l'Europa non possa fare poi una grandissima voce, una fortissima voce di protesta, elevarla nei confronti della Russia. L'Olanda come si sta muovendo lì? Sì, allora, intanto sulla scatola nera, questa è stata una delle domande fatte ieri, e lui ha detto che ci sono anche delle scatole arancioni, quindi ha confermato anche che la scatola nera potesse essere arancione, tra le cose che hanno trovato. L'Olanda, proprio un minuto fa ho parlato con un olandese, con questo Peter Van Ville, che è uno dei membri di una commissione di tre persone, di una organizzazione che si chiama Disaster Victim Identification. È un olandese, dice: siamo venuti qui adesso andiamo al treno, andiamo a questi vagoni nella cittadina di Torres, dove si trovano, dove vengono raccolti i corpi, perché vogliamo essere sicuri che poi venga portato questo vagone, quando verranno raccolti tutti i corpi, in un luogo dove appunto l'identificazione possa avvenire per certo. Noi abbiamo visto, c'è stata una presa di posizione olandese l'altro giorno, in cui chiedevano chiarimento, in cui chiedevano il pieno accesso. C'è il problema delle famiglie. Sembrava in un primo momento che le famiglie potessero venire tutte qua, addirittura la cosa mi sembra molto complicata, perché questo è un posto più o meno di guerra, arrivarci non è facile, si rischia anche, e poi andare non solo arrivare a Donetsk, dove siamo un po' è il capoluogo della zona, ma arrivare sul luogo dell'abbattimento, sul luogo dove sono caduti i resti, è ancora più complicato. Adesso ci mettiamo, io ci torno, ma ci metterò altre due ore per viottoli, la sera verso le 5 comincia a essere pericoloso, eccetera. E qui infatti le ultime notizie sono che le famiglie non si sono mosse e non è chiaro se mai verranno qua. Quindi, no, ma certo, stiamo parlando di una situazione di scenario di guerra, non è certamente facile. Fatemi sentire due ascoltatori, Claudio da Bologna. Claudio, buongiorno. No, buongiorno. Volevo praticamente fare un parallelo con il caso Ustica, sì, dove di fatto si sa, ma non è mai del tutto chiaro, che un missile ha abbattuto un aereo italiano. Quindi alla fine della festa questo è il caso Ustica della Comunità Europea e degli Stati Uniti. Vediamo. Con le stesse vigliaccherie e viltà, vedrete, nessuno farà niente, perché sull'altare degli affari con la Russia e del gas russo nessuno toccherà niente. Oh, questa è un'analisi interessante, Sergio Romano certamente ci può dare qualche lume in proposito. Si dice, Romano, la Russia è talmente forte anche dal punto di vista energetico che, ecco, come ci dice Claudio da Bologna, intanto le piace il parallelismo, anche se è una vicenda ben diversa, con il caso Ustica dell'Unione Europea? No, non ne sono convinto, non mi convince. Casi del genere hanno tutti la loro, come dire, originalità e la loro autonomia. E quanto ai nostri rapporti energetici, per così dire, con la Russia, ho sempre pensato che la frase non si agisce contro la Russia perché ne siamo dipendenti sia fondamentalmente sbagliata. La Russia dipende da noi per il suo sviluppo, per le sue le nuove tecnologie di cui ha bisogno, tanto quanto noi dipendiamo da lei per le nostre forniture energetiche. È abbastanza irrilevante pensare che è una sorta di ripetizione banale che ascoltiamo continuamente. Perché dovremmo dipendere dalla Russia perché le compriamo il gas? Ma il gas è fatto per essere venduto. Sì, e questo è chiaro. Però voglio dire, sì, però questo è un rapporto bilaterale, quindi nel quale tutti hanno interessi, ma se all'interno è caduta la linea, se all'interno di questo rapporto uno dei due partner, diciamo così, compie un'azione del genere, se provata, è questa la cosa che fa molto specie. Fatemi sentire, è questa, no, ambasciatore Romano, la questione. No, ma prima di lasciarvi, perché dovrei lasciare, non vorrei dire che naturalmente bisogna cercare di tenere distinte le due cose. C'è un problema ucraino e c'è un problema dell'abbattimento dell'aereo, e vanno trattati con il necessario rigore, se è necessario o se è possibile. E poi c'è il rapporto economico, che è un rapporto di lunga durata. Chiaro. E che non può essere messo sullo stesso piatto della bilancia, come se una cosa fosse scambiabile con l'altra. Intanto la ringrazio, grazie Sergio Romano per essere stato con noi. Vorrei andare è caduta la linea prima di Lorenzo Cremonesi in Ucraina. Lorenzo Cremonesi, anche lui lo ringrazio, ricordo, inviato del Corriere della Sera. Vorrei sentire Giovanni dalla provincia di Roma. Buongiorno Giovanni. Sì, buongiorno a lei, dottore. Mi dispiace che non ci sia più l'ambasciatore Romano, perché è un interlocutore di alto, mi sarebbe piaciuto sentire il suo parere. Io dico questo missile, si continua a parlare che è stato sparato da degli insorgenti, da dei ribelli, non è possibile. Perché? È un missile troppo complicato. Allora, no, è chiaro, ribelli che secondo le ricostruzioni sono forniti dagli armamenti dalla Russia. Sì, sì, sì. Ma questo è scontato, ma non basta, mi spiego meglio. Non è un missile spalleggiabile tipo Stinger che può essere sparato da un insorgente. No, è chiaro, ci vuole una tecnologia più complicata. Richiede una tecnologia, una manutenzione, un missile che ha parametri digitato con un radar che possa identificare il bersaglio, seguirlo, tracciarlo, perché il missile deve andare al punto futuro. Materialmente non è gestibile da degli insorgenti, per cui io sono militari, no, ma sono militari, guardi che, esatto, che combattono, esatto, ma è così, Giovanni, ma guardi che chi combatte tra i filo russi sono dell'esercito russo, non è che sono degli scalcagnati, questo, Giovanni. Paragone con quella che è stata la guerra di Spagna, dove c'erano delle truppe italiane, tedesche, che combattevano in incognito, quindi lì non c'è una responsabilità degli insorgenti, lì secondo me c'è l'intervento, ammesso che sia stato quel tipo di missile, sì, il tipo dei militari, un'organizzazione ma sono militari, no, ma è chiaro, ma sono militari, Giovanni, chiudo con Giorgio da Napoli, se è conciso però, no. Giorgio, la ringrazio. Sì, io temo che l'ambasciatore romano abbia torto, nel senso che l'ambasciatore romano non si rende conto che la Russia, è vero che dipende da noi dalle tecnologie, ma non ci teme, non teme l'Europa, non teme un'America con un presidente democratico che non attaccherà mai. Io spero che gli olandesi facciano l'unica cosa che la loro dignità dovrebbe fare, cioè quella di chiedere l'intervento della NATO, perché ci sono gli articoli del trattato della NATO che prevedono anche questo tipo di situazione, altrimenti faremo la solita figura, cioè un nano politico. Di nani politici, cosa che peraltro un pochino siamo, caro Giorgio. Grazie, con lei finisco, ringrazio tutti, Giorgio De Luca in redazione insieme ad Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi e Carmelo Lauricella in regia. Il profilo Twitter è 24 mattino, quello della trasmissione, il mio profilo personale Alino Milan, se volete seguirmi io sono molto felice, tra 4 giorni vado in ferie e detto questo ci riaggiorniamo a domani alle 6:30 in punto.